La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con La storia e la memoria. Nella prima parte di questa puntata, l'approfondimento di Dino Pesole è dedicato alla grave crisi che sconvolse nel 1294 le società finanziarie italiane, ubicate principalmente in Toscana, situazione che ha molte similitudini con la grave crisi finanziaria che sta investendo gli Stati Uniti e a cascata il resto del mondo. Ospite ai microfoni di Dino Pesole, Ignazio Del Punta, studioso di storia medievale, e Giorgio Rivieccio, direttore della rivista storica National Geographic. Nella seconda parte vi proponiamo, in collaborazione con History Channel, un radiodocumentario sulla mitica USS Enterprise, portaerei della United States Navy, e sui combattimenti contro la flotta aerea giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma ora, la parola a Dino Pesole. La grave crisi finanziaria che ha investito gli Stati Uniti e poi a cascata il resto del mondo, trasferendosi poi rapidamente all'economia reale, ha un lontano precedente. Non stiamo parlando della grande crisi del 1929, che pure viene evocata per cogliere le similitudini con la depressione in cui scivolò il mondo, appunto tra le due guerre mondiali, ma molto, molto più indietro nel tempo. Stiamo parlando di quel che accadde in Italia nel 1294, 715 anni fa. Tassi di interesse alle stelle, indebitamenti, fallimenti e debitori insolvibili. È il primo vero crack finanziario della storia, secondo quanto rileva il mensile Storica di National Geographic nel numero di marzo, il primo della nuova serie. Le sorprendenti similitudini tra il periodo buio che sta attraversando l'economia mondiale e la grave crisi che sconvolse il XIII secolo riguardano sia la grave carenza di liquidità, sia l'eccessiva facilità con cui le società finanziarie italiane, ubicate principalmente in Toscana, concedevano prestiti, soprattutto a regnanti e grandi istituzioni europee. Prestiti che difficilmente venivano poi completamente estinti, portando le stesse società finanziarie al fallimento, soprattutto perché erano gravati da tassi di interesse che sfioravano anche il 45-50%. Molto rilevante era nel tardo Medioevo l'attività dei banchieri e delle compagnie finanziarie, sorprendentemente all'avanguardia per l'epoca. Banche molto simili a quelle moderne, con filiali indipendenti in tutto il mondo, da Costantinopoli ad Avignone, da Parigi a Barcellona e in Italia. Svolgevano la doppia funzione di istituti di credito e di compagnie mercantili. Concedevano, ad esempio, alla corona britannica o ai monasteri inglesi prestiti che sarebbero stati ripagati nell'anno successivo in lana. La responsabilità del crack finanziario della fine del 200 la ebbero per gran parte le compagnie finanziarie. Spesso i grandi debitori venivano meno agli accordi stabiliti e il loro indebitamento saliva alle stelle, mettendo a rischio la sopravvivenza dei loro creditori. Già il re inglese Edoardo I, si legge nell'articolo della rivista, per finanziare la conquista del Galles aveva ottenuto ingenti prestiti dalla Compagnia dei Ricciardi, ma questi ultimi, per finanziare le continue richieste di denaro del monarca britannico, avevano a loro volta contratto debiti con altre società mercantili di tutta Europa. Così come sta avvenendo oggi, anche allora si verificò una repentina, grave carenza di liquidità, seguita da una perdita di fiducia da parte dei mercanti, che non erano più disposti a prestare denaro, non avendo la certezza di rientrare dell'investimento effettuato. La situazione si aggravò con lo scoppio della guerra tra Francia ed Inghilterra per il possesso della Guascogna. Un attacco di panico colpì i creditori, che corsero a chiedere il rimborso degli investimenti con i relativi interessi. La conseguenza fu il fallimento dei Ricciardi nel 1294. Alcuni decenni dopo, la situazione si ripeté con il nipote di Edoardo I, il re inglese Edoardo III, che aveva contratto ingenti debiti per pagare le spese del riarmo in seguito al coinvolgimento della corona britannica nella guerra dei cent'anni. Abbiamo in linea Ignazio Del Punta, che è ricercatore alla Scuola Superiore di Studi Storici di San Marino. Professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Prego. In che modo e come si somigliano le due grandi crisi, i due grandi crack finanziari, quello del 1294 e quello che è in corso adesso? Io ho proposto un parallelo tra i crack finanziari, più in generale i crack finanziari del tardo medioevo, sia quello di fine 200 sia quello dei primi anni 40 del 300, che ha riguardato le grandi compagnie fiorentine, in particolare Bardi, Peruzzi e Acciaiuoli, pochi anni prima della Grande Peste, e il crack attuale, per dimostrare come nella storia del capitalismo, fin dalle sue origini, fin dalla sua infanzia, ci sono stati ricorrenti momenti di crisi e di panico finanziario. Naturalmente con tutte le differenze del caso, ovviamente è difficile, quasi impossibile proporre un'analogia tout court tra il mondo della finanza tardo medievale e la finanza moderna. Ovviamente. Ad esempio, professore, mi scusi, ma certamente sì. A quell'epoca il mondo non era così globalizzato. Senz'altro, il fenomeno della globalizzazione dei mercati, non solo finanziari, ma anche della produzione di beni e servizi, riguarda in realtà, è un fenomeno recente che riguarda gli ultimi 30 anni, si è avviato in sostanza dagli anni, la seconda metà degli anni 70 e dagli anni 80. Il mondo tardo medievale della fine del 200 era un mondo di mercati in contatto, senz'altro collegati tra di loro, per quanto riguarda, parlo del continente europeo, però limitatamente ad alcune aree e in particolare ad alcuni epicentri. L'Italia centro-settentrionale, nel caso specifico io mi sono occupato soprattutto della Toscana, era senz'altro all'avanguardia, era una zona di capitali, diciamo per così dire, di capitali commerciali e finanziari. Ecco. Può essere interessante, professore, indagare su come se ne uscì da quella crisi, pur con le dovute differenze che abbiamo appena illustrato con il crack finanziario che si è trasferito all'economia reale che è in corso, però potrebbe essere utile trarre, come dire, degli insegnamenti nell'ottica di quello che ci ha tramandato anche Gian Battista Vico, no? Dei corsi e dei ricorsi storici. Sì, senz'altro, pur di farlo con attenzione, tenendo presente appunto le numerose, in alcuni casi anche profonde differenze e particolarità. Però secondo me quello che è molto interessante è vedere come ci siano degli elementi di fondo, degli elementi che potremmo definire strutturali, che si ripropongono appunto, dicevo, nella storia del capitalismo fin dalla sua infanzia, che è collocabile chiaramente nel periodo tardo medievale, e ripeto, l'Italia centro-settentrionale era allora una delle fucine del capitalismo o del precapitalismo. In questo senso possiamo vedere ad esempio che uno degli elementi di fondo è quello della fiducia e la crisi, le crisi finanziarie e le crisi più generali economiche vengono sempre amplificate da delle crisi di fiducia, ovvero ci sono degli elementi che potremmo definire esterni, nel caso attuale ad esempio il crack di Lehman Brothers, ma possono essere anche elementi di natura politica, eventi di natura politica che innescano delle crisi finanziarie, le quali poi vengono molto aggravate e amplificate da crisi di panico e crisi di fiducia. Il capitalismo, il fatto è che il capitalismo per funzionare fin dai suoi albori ha sempre avuto bisogno come di un elemento chiave della fiducia. Un altro fattore di lungo periodo è quello delle crisi di liquidità. Al direttore della rivista, Giorgio Rivieccio, di questa nuova rivista, il mensile storica di National Geographic, che ci ha un po' ispirato in questo nostro approfondimento odierno, qual è, diciamo, la ratio che ha ispirato questa nuova interessante iniziativa editoriale che si colloca un po', diciamo, se vogliamo, nel solco della tradizione di National Geographic, però con un taglio tutto storico? Sì, esattamente, lei ha detto bene, perché il taglio è tutto storico, è decisamente storico, e collocandosi nel solco della tradizione del National Geographic il giornale ha una forte componente visiva, quindi per la prima volta si parla di storia in maniera molto divulgativa, ma anche molto visiva, fortemente visiva, con le immagini del National, con delle ricostruzioni in 3D di ambienti, di situazioni, di case, di città del passato che diciamo non hanno precedenti, almeno in Italia, in questo genere di pubblicazioni. Lo scopo del giornale è venire incontro appunto a un desiderio che noi crediamo sia molto forte tra i lettori, di leggere un giornale di storia non solo per addetti ai lavori, ma che si rivolge a tutti, che presenta in maniera accattivante le storie del passato, i personaggi, ma anche in maniera rigorosa, perché gli articoli sono scritti tutti da esperti, da professori, quindi da questo punto di vista stiamo tranquilli che l'informazione sia corretta e soprattutto aggiornata, perché non sembra, ma la storia, il passato cambia molto negli anni, perché ci sono sempre nuove scoperte, nuove teorie, nuove ipotesi, e quindi diventa è importante essere aggiornati anche da questo punto di vista. E un'altra delle motivazioni forti che sono alla base di questo giornale è far vedere come la storia sia importante per capire il presente, perché le situazioni si ripetono, perché le scelte si ripetono. Facciamo appunto il caso del crack delle banche, che dopo 800 anni si ripete esattamente così, e forse se i banchieri nostri e americani avessero conosciuto questo precedente, magari si sarebbero comportati in maniera diversa. La storia e la memoria. Ben ritrovati. Il radiodocumentario che vi proponiamo questa sera racconta come i marinai e gli ufficiali della storica portaerei USS Enterprise affrontarono gli attacchi dei piloti suicidi giapponesi. 10 gennaio 1945, ore 3. Una squadriglia di bombardieri e caccia decolla dal ponte dell'Enterprise. Il comandante Bill Martin chiede ai piloti dell'Enterprise di lanciarsi in una delle operazioni più pericolose della guerra. Nessuno lo delude. A 480 chilometri, col favore dell'oscurità, un convoglio di 15 navi giapponesi trasporta rifornimenti per la flotta imperiale. Costeggiano le rive dell'odierno Vietnam. All'alba i 21 aerei dell'Enterprise individuano il bersaglio ed entrano in azione. Il tenente Raskippen guida l'attacco degli aerosiluranti. È già un eroe. Esperto in attacchi notturni, ha guidato l'attacco sulla laguna di Truk nel 1944. Adesso si dirige su un incrociatore leggero giapponese. A soli 150 metri dall'acqua, Kippen sgancia le sue due bombe. L'incrociatore sotto tiro è costretto a virare. Ma è in arrivo un altro bombardiere che lo colpisce a mezza nave. Intanto le mitragliatrici dei caccia Hellcat crivellano i ponti delle navi. I Hellcat sono dotati di una nuova arma: razzi ad alta velocità. I razzi montati al di sotto delle ali degli Hellcat colpiscono una delle navi mercantili. Quando i bombardieri dell'Enterprise interrompono l'attacco, è quasi l'alba. È stato un successo. È il nuovo volto della guerra. Due settimane prima, il 24 dicembre, l'Enterprise era partita da Pearl Harbor, dove è stata potenziata con importanti innovazioni, come nuove luci per l'atterraggio e nuovi aerei equipaggiati con le più moderne tecnologie radar. I radar consentono già di intercettare potenziali minacce. Ma cosa più importante, quelli in dotazione sugli aerei danno agli alleati un vantaggio tattico: il volo notturno. Il comandante Bill Martin è la mente delle missioni notturne. Tuttavia, gli alti ufficiali sono critici riguardo questo tipo di operazioni. Sergente William Baudet, Corpo della Marina degli Stati Uniti. Le opinioni erano discordi. Considerando che stavamo vincendo la guerra, non vedevano la necessità di missioni notturne. Bill Martin ha la sua missione personale: dimostrare che le operazioni notturne non sono soltanto possibili, ma necessarie. Comandante Alan Pietrozeschi, ex pilota Top Gun della Marina Militare statunitense. Attaccare di notte porta chiaramente un grande vantaggio strategico. Se non mi vedi, non mi puoi colpire. Ma l'Enterprise deve operare anche durante il giorno. Eseguire pattugliamenti armati durante gli attacchi nemici e mantenere operativo il ponte per accogliere gli aerei troppo danneggiati per rientrare sulle loro portaerei. Le operazioni proseguono 24 ore su 24. La guerra non si ferma mai. 5 gennaio 1945. 5 giorni all'inizio dei combattimenti. L'Enterprise si unisce alla sua task force. 6 portaerei pesanti, 6 portaerei leggeri, corazzate, caccia torpediniere e navi appoggio. In tutto 116. La forza d'attacco navale più potente che il mondo abbia mai visto. La task force si dirige verso il mar della Cina meridionale. Dall'inizio della guerra è la prima volta che le forze alleate entrano in acque controllate dai giapponesi. L'attacco notturno al convoglio giapponese è solo l'inizio. Nei prossimi 3 giorni, la squadriglia notturna di Bill Martin bombarderà le città di Saigon, Hong Kong e Canton. 2 settimane dopo, l'Enterprise affronta la sua sfida più grande. Bersaglio, il porto di Kirun, a Formosa. Obiettivo, distruggere le basi navali nemiche per il rifornimento. Strategia, attacchi notturni con bombardieri. Bill Martin guida personalmente una formazione di 3 aerei su Formosa. Gli altri velivoli sono sotto il comando del tenente Russ Kippen. Si dirigono verso ovest per 340 km e poi a nord-ovest per altri 160, fino a raggiungere l'isola di Formosa. Alle 4.30 l'operatore radar studia sullo schermo il tracciato del porto di Kirun. L'attacco ha inizio. Bersagli degli Avenger. Le zone interne ed esterne dei porti affollati di navi da rifornimento. I depositi di carburante e le piccole fabbriche di armi sono i bersagli terrestri. Ma coloro che si affidano al radar possono rimanerne vittime. Tom Watts, radiofonista bombardiere Enterprise. 3 aerei andarono perduti. È stato un duro colpo per la nostra squadriglia. Nonostante le perdite, i bombardieri dell'Enterprise mantengono alta la pressione sul nemico, proseguendo con gli attacchi notturni sulle isole giapponesi e sulla stessa Tokyo. I giapponesi, sempre più disperati, scatenano tutta la loro ferocia sulla piccola striscia di terra del Pacifico chiamata Iwo Jima. È un'isola piccola, ma l'America ne ha bisogno come base aerea da cui lanciare i bombardieri B-29 sul Giappone. Ma i giapponesi non hanno alcuna intenzione di cederla. Il 19 febbraio ha inizio l'invasione di Iwo Jima. La bandiera che gli americani piantano simbolicamente segna l'inizio dell'invasione, non la sua fine. Ma indica all'Enterprise e ai suoi piloti che possono lasciare il teatro della battaglia per un meritato riposo. Ma non durerà a lungo. 18 marzo, ore 5:17. L'Enterprise è di nuovo a Iwo Jima e attende il rientro dei suoi aerei dopo i raid notturni. I radar individuano una formazione di aerei a 120 km di distanza, in rapido avvicinamento. Ma quando è a 60 metri di distanza, la terribile verità si rivela. Jack Maroney, Marine USS Enterprise. All'improvviso abbiamo capito che si trattava di un aereo nemico che volava a pochi metri dal nostro ponte. Richard Hart, ufficiale dei Marine USS Enterprise. Ho pensato, è la fine. Sono stato scagliato in aria e sono ricaduto sulla schiena. Poi qualcuno mi chiedeva il permesso di abbandonare le batterie perché la bomba era proprio lì. Mi sono girato e ho visto la bomba accanto alle nostre batterie. Miracolosamente la bomba rimbalza sul ponte, schizzando da una parte all'altra, ma non esplode. La fortunata Enterprise, ancora una volta, è fedele al suo soprannome. Il 20 marzo, l'Enterprise ritorna nella zona operativa al largo di Okinawa. La prima ondata di bombardieri da picchiata compare alle ore 16. Il primo attacco proviene da uno dei giovi. Da un'altitudine di 600 metri, sgancia il suo carico da 225 kg. La bomba sorvola il ponte dell'Enterprise prima di finire in mare a meno di 15 metri dalla prua. Esplode in mare, riversando getti d'acqua sul ponte di volo. Alle ore 16:24 un altro Judy comincia la sua picchiata. Il fuoco della contraerea lo neutralizza quando è a soli 150 metri. Ma la mitica fortuna dell'Enterprise potrebbe esaurirsi. Mentre il Judy scende in picchiata, due proiettili da 127 mm colpiscono l'Enterprise. Provengono da una nave amica. Le esplosioni incendiano un vicino Hellcat, le cui munizioni esplodono. L'Enterprise è in fiamme. Le squadre controllo danni entrano in azione per spegnere il fuoco sul ponte in fiamme. Dopo 15 minuti, il fuoco è spento. I cannoni dell'Enterprise continuano a fare fuoco. L'ultimo bombardiere viene abbattuto alle ore 17:10. I cieli sono di nuovo sicuri. L'Enterprise è stata colpita, ma è ancora solida. La sua fortuna ha resistito, finora. La storia e la memoria. Continua il radiodocumentario sugli attentati che i piloti kamikaze giapponesi organizzarono contro la portaerei USS Enterprise della US Navy durante il secondo conflitto mondiale. Mentre l'Enterprise si dirige verso la base di Ulithi per le riparazioni, i giapponesi organizzano una forza d'attacco molto più letale. Reparti votati soltanto alla morte. Il viceammiraglio Takijiro Onishi è la mente delle squadriglie kamikaze. È l'ultima disperata difesa del Giappone. I giapponesi si votano al sacrificio estremo. La tattica funziona. A marzo, gli Stati Uniti sferrano un attacco alle isole più vicine al Giappone. Bersaglio, Okinawa. Obiettivo: conquistare e mantenere le isole per organizzare l'invasione finale del Giappone stesso. L'invasione ha inizio il 1 aprile. Durerà 92 giorni. 11 aprile 1945. Alle ore 13:30 il primo dei temuti attacchi kamikaze fa la sua comparsa. Alle ore 14:05 il primo Zero compare nel cielo puntando sulla portaerei Essex, ma improvvisamente cambia direzione e si dirige verso la Big E. I cannoni aprono il fuoco. Il primo kamikaze precipita in mare a 450 metri a dritta. Ma pochi secondi dopo, un bombardiere kamikaze compare a poppa. La posizione in cui si trova l'Enterprise impedisce ai cannoni laterali di mirare. Vira rapidamente per consentire il fuoco. Gli artiglieri sul fianco sinistro cominciano a sparare. Il kamikaze avanza, mentre i 40 mm continuano l'attacco. È un duello mortale. Il duello termina quando il bombardiere colpisce lo scafo in velocità. L'attacco provoca l'esplosione di 8 serbatoi di carburante e danneggia la cintura antisiluri. Ma sorprendentemente non ci sono perdite. Le squadre controllo danni entrano in azione, ma gli attacchi continuano. Alle ore 15 viene abbattuto un altro bombardiere a pochi metri dalla prua. All'impatto con l'acqua, la bomba esplode scaraventando frammenti infuocati sul ponte dell'Enterprise. Nella catapulta di lancio, un Hellcat viene avvolto dalle fiamme. Le squadre controllo danni intervengono rapidamente, lanciandolo in mare. Poi, un altro kamikaze viene abbattuto. Al calare della notte sono stati sventati 6 assalti kamikaze. L'Enterprise è stata colpita. 5 uomini sono feriti, ma la sua epica fortuna resiste ancora. L'Enterprise si dirige verso la base sull'isola di Ulithi per riparare i danni. Quando ritorna nel teatro della battaglia a largo di Okinawa, il volto della guerra è cambiato. L'8 maggio 1945 termina la guerra in Europa. La minaccia nazista è stata neutralizzata e in tutta l'America si festeggia. Ma nel Pacifico non è prevista alcuna tregua. L'Enterprise torna a Okinawa, dove la brutale battaglia entra nell'ottava settimana di scontri. La sera del 12 maggio 1945, 16 bombardieri aerosiluranti decollano con l'oscurità dal ponte della Big E. Bill Martin intende sottoporre i bombardieri notturni a un ultimo test. Bersaglio: gli aeroporti di Kyushu, Sasebo e Nagasaki. Obiettivo: fermare gli attacchi kamikaze. Strategia: bombardamento a tappeto. Il piano prevede di bombardare i campi d'aviazione per tutta la notte, impedendo ai giapponesi di prepararsi per gli attacchi kamikaze del giorno dopo. Gli Avenger martellano le postazioni nemiche e ogni 3 ore una nuova squadriglia sostituisce quella precedente. Gli equipaggi giapponesi non possono avventurarsi all'esterno. Alle prime luci dell'alba, gli Avenger si allontanano per essere sostituiti dai caccia. I bombardieri notturni, nell'oscurità, non sono in grado di determinare l'entità dei danni che hanno inflitto. Ma nel sole di mezzogiorno, per la flotta americana ancorata al largo di Okinawa, il risultato è chiaro come il sole. Nei cieli non si vedono aerei giapponesi e le navi della Task Force americana non subiscono neanche un attacco per tutta la giornata. Bill Martin ha dimostrato l'efficacia delle missioni notturne guidate dai radar. Il suo esperimento ha funzionato. 14 maggio. Per gli instancabili combattenti della Big E, ha inizio un'altra lunga giornata. Alle ore 6:10 sui radar compaiono oggetti in avvicinamento, 12 aerei ancora distanti. L'equipaggio si prepara per un altro attacco kamikaze. Pochi minuti dopo, un aereo suicida si dirige direttamente verso il centro del ponte della Big E. I cannoni dell'Enterprise fanno fuoco. Sorprendentemente, il kamikaze non si difende e viene rapidamente abbattuto. I piloti kamikaze sono male addestrati, reclute inesperte, facili prede per gli esperti artiglieri dell'Enterprise. In mezz'ora, 5 di loro vengono abbattuti. Ma alle 6:50, un solitario Zero segue la Big E, mantenendosi fuori tiro, nascosto tra i cumuli di nuvole. Alle 6:56, durante la manovra evasiva dell'Enterprise, lo Zero intravede un'opportunità. Il caccia giapponese si getta in picchiata da poppa. Terminata la virata, i cannoni dell'Enterprise entrano in azione. Richard Hart, ufficiale dei Marines USS Enterprise. È sceso sul nostro lato sinistro fino a circa 60 metri. Ho pensato che ci avrebbe mancato. E grazie a Dio è stato così. Poi, con grande sgomento di tutti, lo Zero vira a sinistra, si capovolge e con estrema precisione ed eleganza si getta in picchiata sull'elevatore della nave. La più grande esplosione documentata della sua storia scuote la nave da prua a poppa. 5 ponti più in basso, la bomba da 225 kg esplode con una tale potenza da scaraventare in aria l'elevatore. Una fotografia scattata dalla vicina USS Washington congela lo straordinario momento. Testimonia la potenza di un singolo kamikaze, in grado di scagliare a più di 120 metri di altezza un elevatore di 15 tonnellate. Ancora Richard Hart. Mi stavo alzando quando i detriti del ponte e di tutto quello che era esploso hanno cominciato a ricadere su di noi. Sembrava che non dovessero mai finire. L'Enterprise è colpita al cuore è un colpo senza precedenti. Il fuoco invade il pozzo dell'elevatore e gli hangar. Il ponte è distrutto e deformato dal calore. I cannoni prodieri non ci sono più, l'impianto del carburante è distrutto. Alcuni uomini sono fuori bordo e 2000 tonnellate di acqua stanno invadendo la nave attraverso i fori nello scafo. La potente Enterprise sbanda di 2 metri. È un bersaglio perfetto per il prossimo kamikaze. Le esperte squadre controllo danni entrano in azione spegnendo le fiamme, soccorrendo i feriti e tentando di salvare la nave. Gli artiglieri sopravvissuti scrutano il cielo per prevenire ulteriori attacchi. 13 uomini sono morti, 68 sono feriti e 8 sono fuori bordo. Dell'imponente portaerei non rimangono che rottami fumanti. Le squadre controllo danni hanno fatto il possibile, ma al posto dell'elevatore ora c'è un'enorme voragine. I fori nello scafo fanno sbandare la nave e i suoi aerei sono stati danneggiati dal fuoco. Mentre il gigante ferito procede a fatica, l'equipaggio fa una stima dei danni. Non ci sono buone notizie. Senza l'elevatore e con il ponte di volo deformato, è impossibile far decollare gli aerei. È una portaerei che non può lanciare più alcun aereo. In quasi 4 anni di guerra, la Big E ha resistito a molti attacchi da cielo, mare e sottomarini. Ma è bastato un solo abile pilota suicida per realizzare quello che la marina giapponese non ha mai ottenuto: neutralizzare l'Enterprise. La nave danneggiata deve rientrare in patria per le riparazioni, a Bremerton, Washington. 6 giugno 1945. Un anno dopo lo sbarco in Normandia, la USS Enterprise fa rotta verso la madrepatria per le riparazioni. Per 3 mesi i suoi uomini sono bloccati sulla terraferma. Alcuni scendono. Alcuni vanno a casa. Altri continuano a svolgere le loro mansioni, vitali per la sopravvivenza della cittadella d'acciaio di 32.000 tonnellate. Quando ad agosto i giapponesi si arrendono, l'Enterprise è ancora nel bacino di carenaggio. A Tokyo, i rappresentanti dell'impero giapponese firmano la resa incondizionata sul ponte della corazzata Missouri. Lo stesso giorno, l'ammiraglio Onishi scrive un messaggio di scuse per i 4.000 piloti che ha mandato a morire. Poi, commette il sacrificio rituale. La guerra è finita. Gli uomini dell'Enterprise tirano un sospiro di sollievo, così come l'America intera. I valorosi soldati vogliono soltanto tornare a casa e cominciare una nuova vita. La guerra è terminata. 20 Battlestar, una per ogni battaglia, 911 aerei abbattuti, 71 navi affondate. Finora è la nave più decorata della storia della Marina americana. Nel maggio del 1946, un anno dopo la resa del Giappone, l'Enterprise entra nel bacino di carenaggio e nel limbo. La USS Enterprise è stata una delle armi più potenti della democrazia. Una crudele e letale macchina, il cui scopo era vincere una guerra devastante. Ma per i suoi uomini, la Big E, più che un'arma, è stata una casa. Tom Watts, radiofonista bombardiere Enterprise. Era come una mamma premurosa per me. Dopo aver volato per quasi 500 chilometri, quando rientravi, vedevi il tremolio delle luci che guidavano il tuo rientro a bordo. Tornavamo a casa dove si sarebbe presa cura di noi. Prima di chiudere, vi segnaliamo che la versione integrale del documentario che avete appena ascoltato andrà in onda su History Channel martedì 3 marzo alle 21, con il titolo originale Il fronte a 360 gradi, l'ultimo grido del Giappone. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Vittoria Mussini. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.